altre tre vittime della strada. Entrambe diciottenni le vittime, Antonio De Stefano e Nicola De Marzo. Terzo superiore, compagni nuovi, una pagina bianca da riempire di colori. Io a sociale come sempre, non parlo con nessuno. Tu ti avvicini e mi parli da sicuro. Tu fai battute ed io inizio a ridere. Fra la monotonia mi hai fatto sorridere. E da lì un'amicizia davvero solida. Colazione insieme e ritardi alla scuola. Appena mi vedevi, gridavi il mio nome. Mi giravi, tu mi indicavi con attenzione il pallone. La tua vera passione, quattro passaggi in palestra prima dell'interrogazione. Dopo scuola aspettavamo l'autobus insieme, parlavamo di te e il 18 anni che viene. Obiettivo d'obbligo, l'automobile, la tua preferita, una Fiat a tre porte. La scuola andava male, ti volevi divertire, dovevi studiare, ma come potevo non capire. Fine anno dopo quante ne abbiamo passate, tu rimandato ma ci vedevamo in estate. Sulla tua lapide, il tuo nome incancellabile, mentre piango che asciugherà le mie lacrime. Un angelo che imparato a volare troppo presto, guardo il cielo e vedo buio pesto. Guardare le tue foto mi fa male, ma il tuo sorriso mi dà forza per continuare. Il cielo ci divide, ma siamo insieme e sul cuore ciò scritto Antonio, ti voglio bene. Ricordo tutto di quell'anno, ogni secondo, e nel mio cuore c'è un buio profondo. Ci siamo incontrati al supermercato, ho preso il portapod che mi hai regalato. Avevi un lavoro di cui non ti lamentavi, ti piaceva questa vita che non era più da schiavi. Quella telefonata non la potrò dimenticare, mi inviti alla tua festa ed io non posso mancare. Odio le feste, ma sai cos'è? Son venuto perché ci tenevo a te. Raggiunti 18, il sogno di ogni ragazzo, la tua macchina arrivava e ne andavi pazzo. Ero felice per te e ho avuto ciò che volevi. Dopo quell'abbraccio ti ho detto goditeli. La tua telefonata per la partecipazione, Fabio scusami, ma non ricordo il tuo cognome. Sulla tua lapide, il tuo nome incancellabile, mentre piango che asciugherà le mie lacrime. Un angelo che è imparato a volare troppo presto, guardo il cielo e vedo buio pesto. Guardare le tue foto mi fa male, ma il tuo sorriso mi dà forza per continuare. Il cielo ci divide, ma siamo insieme, e sul cuore ciò ho scritto Antonio, ti voglio bene. 30 novembre, qualcosa non va come sempre, c'è un'aria strana, ma nessuno l'avverte. Qualcuno mi dice, Fabio, Antonio è morto, non dire stronzate, afferrandolo dal collo. Vado su Facebook, leggo i commenti, e in un attimo i miei occhi si sono persi. Il cuore mi si blocca in gola, non ci credo ancora, esplode nel petto come un colpo di pistola. Mani nei capelli, pugni al muro, c'è nel stradale, se ne è salvato solo uno. Sommerso nelle lacrime, seduto alla sedia, qualcuno grida, ha avuto la notizia, tante cose in testa, sembra da manicomio. Ehi Dio, perché ti sei preso Antonio? 18 anni appena compiuti, inizia la vera vita, ma così come è iniziata, così è finita. Il tuo sorriso, non lo rivedrò più, resta solo un ricordo che mi butterà giù. Chi mi farà sorridere, chi farà la colazione? Il tuo cuginetto piangeva alla tua celebrazione. Con queste parole mi si stringe il cuore, una lacrima sporca il foglio che brucia da dolore. Butto fuori quel che ho dentro, da quel brutto giorno sembro il protagonista di un sogno horror. Ma qui non c'è Samara, c'è una lacrima amara, mentre volo con la testa come il vento nel Sahara. Sulla tua lapide, il tuo nome incancellabile, mentre piango, che asciugherà le mie lacrime. È un angelo che ha imparato a volare troppo presto, guardo il cielo e vedo buio pesto. Guardare le tue foto mi fa male, ma il tuo sorriso mi dà forza per continuare. Il cielo ci divide, ma stiamo insieme, e sul cuore ciò ho scritto Antonio, ti voglio bene. Dell'alta velocità è finita fuori strada urtando violentemente contro un ostacolo. Vittime della strada, vittime della strada, vittime della strada.